Come detto, è martedì 16 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore mette in titolo di prima pagina il forum, l'intervista che c'è in due pagine al ministro del welfare Elsa Fornero. Contratti a termine meno rigidi, questo è il titolo di prima pagina, ma vedremo poi ampistralci dell'intervista perché ci sono tante novità riguardo all'attualità economica nell'intervista al ministro del welfare, appunto. Poi la vicenda Napolitano. È emersa una lettera all'ex consigliere giuridico Loris D'Ambrosio e quindi ritorna in auge la questione della presunta trattativa Stato-mafia con la procura di Palermo che indaga e le famose telefonate all'ex ministro Nicola Mancino nelle quali è finita anche la voce del capo dello Stato. È l'apertura per molti quotidiani. Corriere della Sera, Napolitano vogliono colpirmi. Repubblica, Napolitano volevano colpire me. Il Fatto Quotidiano, Napolitano avverte i PM di Palermo, mentre il Messaggero, tagli agli sconti, no al rinvio, è la questione della legge di stabilità che vedremo, anche per la stampa, detrazioni, il governo non cede. Il Giornale, Stato strozzino, ecco le prove, mentre Libero, fatta la legge per non pagare, questo è il titolo di apertura. Mi sono perso metà dei giornali, ma eccoli qua. Li troviamo, l'apertura dell'Unità, rinnovare o rottamare il dibattito all'interno del centro-sinistra, mentre Pubblico, sempre su questo, effetto domino, la rinuncia di Veltroni innesca una reazione a catena. L'apertura del Secolo XIX la tengo tra un attimo perché da lì poi vorrò partire tra qualche secondo, dopo aver dato spazio in apertura a quello che su tutti i giornali, ne abbiamo parlato anche alle 6.30, è un po' il protagonista della giornata di cronaca di ieri, vale a dire il comandante Francesco Schettino. Ieri si è presentato a Grosseto all'udienza dove c'era l'incidente probatorio al Teatro Moderno del capoluogo in Toscana. Tutti i giornali pongono l'accento sul fatto che Schettino, che non ha potuto incontrare i giornalisti, non avrebbe voluto neanche, per la verità, è stato tenuto separatamente, però ha incontrato diversi naufraghi di quella tragedia in cui morirono, ricordiamo, 32 persone. Schettino spavaldo tra i naufraghi, titola per esempio il Corriere della Sera pagina 21 con Marco Imarisio. Ho dato il massimo per voi, questa è la frase, ho dato il massimo per voi, tanto che Marco Imarisio racconta alla signora Patrizia è sembrato che ci credesse davvero, lo ha incrociato al bar del teatro, a quell'uomo che non rivedeva dalla serata di gala del giovedì, gentile e disponibile, ha rivolto un grazie, ma un grazie carico di ironia e rabbia, evidentemente non pervenute, perché Schettino ha risposto così: si figuri, signora, io ho fatto solo il mio dovere, ho cercato di dare il massimo. Patrizia e il suo avvocato si sono guardati interdetti mentre l'ultimo capitano della Costa Concordia si allontanava con un panino incelofanato in mano, una Coca-Cola nell'altra, senza parole loro, non l'altro, il principale indagato di una storia enorme che invece sembrava perfettamente a suo agio in questa specie di debutto al ritorno a Grosseto, il posto più vicino a questo cazzo di Giglio, parole sue, del comandante Schettino. Lì dove la notte del venerdì 13 gennaio traffico marittimo regolare, questa l'ultima annotazione della Capitaneria di Porto, fece l'inchino e dove morirono 32 persone, dove l'Italia trovò il riflesso della propria vergogna nell'immagine di quella nave piegata di lato, così tranquillo e rilassato Schettino da far sorgere nella signora il sospetto di una posa, di un atteggiamento studiato. Per la verità altri resoconti, per esempio quello di Grazia Longo sulla Stampa, pagina 10 e 11, raccontano i superstiti davanti a Schettino che invece dicono, come questa signora tedesca, sono colpita dalla sua vulnerabilità. Oppure un altro che dice in fondo non è colpa sua. E effettivamente a proposito delle colpe, tutti i giornali fanno notare che Schettino ha dato la colpa di fatto al timoniere indonesiano che poco prima dello schianto sullo scoglio non ha capito il suo comando, quello vale a dire di virare. O meglio, Schettino ha detto virate da una parte e il timoniere ha capito il contrario, ha virato dall'altra. E questo però, secondo, sarà poi una battaglia legale da vedere, per il procuratore capo di Grosseto era comunque un comando dato in ritardo, cioè ormai il danno era fatto, nel senso che l'impatto con lo scoglio era inevitabile. Per il legale di Schettino invece l'impatto evidentemente era evitabilissimo. Sta di fatto che queste sono battaglie legali, appunto, su cui non entreremo, entrerà il processo, ma i giornali puntano l'accento sulla figura di Schettino che, come scrive Repubblica pagina 14, scarica tutto sul timoniere, fu colpa sua, non capì i miei ordini. Vabbè, trovate tanti articoli ovviamente su questo. Ora prendo in mano il secolo XIX e la sua apertura, perché davvero questa è una storia che, se vera, se confermata, ha dell'incredibile. Ne parlo proprio nel giorno in cui ieri c'è stata una perturbazione che ha messo in allarme, e ancora oggi la Protezione Civile dice attenzione, ci sono ancora gli ultimi strascichi di Cleopatra, ha messo in allarme molti italiani. Ebbene, il secolo XIX invece tira fuori una storia e la mette in prima pagina perché riguarda l'alluvione di 2 anni fa, del 2011 per la verità, 2011, 4 novembre 2011 di Genova, in cui morirono a diverse persone, 6 persone. Le alluvione, le carte truccate. Questo è il titolo di prima pagina. Arrestato il capo della protezione civile in comune. Secondo l'accusa, Meise fece verbali falsi sulla tragedia. Telefonate di pressione sui testimoni. È una vicenda davvero, raccontano Daniele Grillo e Matteo Indice a pagina 7 del secolo, incredibile, sulla quale io non ho parole nel leggerla. Carte truccate sull'alluvione. Sentite cosa scrive il secolo. Dice la procura che non c'è limite al peggio, che il 4 novembre 2011 a Genova non solo il comune non fu in grado di gestire l'emergenza in cui morirono 6 persone, tra loro 2 bambine. Adesso si scopre che 3 superfunzionari dell'allora amministrazione di Marta Vincenzi, ma in carica anche dopo con il sindaco Marco Doria, hanno taroccato la ricostruzione del disastro pensando così di dribblare guai peggiori. Arrestati dunque Sandro Gambelli, in passato numero 2 del comando provinciale dei pompieri, oggi disaster manager, ovvero referente primario per ogni pericolo all'incolumità dei cittadini. Insieme a lui arrestati Gianfranco Del Ponte, già comandante dei vigili urbani, dal 2007 direttore generale area sicurezza e progetti speciali a Genova, e Pierpaolo Cià, direttore del Dipartimento Città Sicura. Sono accusati di falso e calunnia perché, secondo i PM, hanno firmato una relazione in cui si diceva che la piena assassina del torrente Fereggiano era avvenuta almeno mezz'ora prima di quanto accaduto realmente. E perché questa retrodatazione cronologica, secondo i PM? Perché retrodatando di mezz'ora la piena, questo avrebbe confermato la tesi secondo cui la fuoriuscita dell'acqua fu così improvvisa che nessun tempestivo intervento della protezione civile avrebbe salvato le vittime. Le vittime, lo ricordiamo, una donna di 40 anni con le 2 figlie di 8 anni e 10 mesi, una donna di 50 anni, Evelina Pietranera, poi Serena Costa e Angela Chiaramonte. La donna invece che ha perso le 2 figlie, Sciprese Diala, con le figlie Gioia e Gianissa. Secondo gli inquirenti, il documento su cui è basata quella relazione farlocca è stato a sua volta fabbricato. Addirittura si sarebbe falsificata la testimonianza di un volontario, che ora è calunniato, che avrebbe controllato il livello del Fereggiano 2 volte tra le 12 e le 12.15, quando in realtà questo volontario era da tutt'altra parte. C'è l'ex sindaco Marta Vincenzi, intervistata dal secolo XIX, che dice: «Se sono vere queste accuse, potrei morirne». Perché sentii io stessa i funzionari raccontare della loro presenza sul Fereggiano. Sarebbe drammatica questa esperienza. Avevamo scelto il disaster manager Gambelli per la sua competenza. Davvero incredibile. Anche in prima pagina c'è l'editoriale di Marco Menduni che chiede una domanda banale, secca: chi ha ordinato questo depistaggio? Cose che, se confermate, ripeto, anche la stampa fa una pagina su questo, alluvione, dati falsi per giustificare i disastri, i ritardi, arrestato il capo della protezione civile di Genova, indagati altri 2 funzionari. Ci si chiede davvero in che razza di paese, se tutto questo è confermato, possano capitare queste cose. Ci sentiamo tra 5 minuti. Eccoci qua, risorti come l'araba fenice, alle 7:36. Vorrei ripartire dal Sole 24 Ore, che mette in prima pagina un'intervista al ministro del welfare Elsa Fornero. Le trovate poi a pagina 2 e 3, una, due pagine molto intense, ovviamente i temi sono tantissimi. Vediamo alcuni punti di questa intervista, il cui titolo è: Fornero, meno vincoli sui contratti a termine con un decreto, la modifica della riforma annuncia proprio questo. Sui contratti a termine, 400.000 in scadenza, di cui il 40% nella pubblica amministrazione. Posso annunciare che stiamo pensando a una misura di adattamento sugli intervalli d'attesa imposti tra un rinnovo e l'altro, con l'obiettivo di ridurli il più possibile. Riguardo alle partite IVA, invece, se non ci fosse stata una diffusa presenza di false partite IVA, non avremmo introdotto le norme che fanno scattare la presunzione di subordinazione. Per il governo, il lavoro autonomo, se possibile, è anche più importante in prospettiva rispetto al lavoro dipendente tradizionale. Proprio per questo occorre agire con grande attenzione e determinazione sulla base del monitoraggio che stiamo avviando, con criteri nuovi basati su una valutazione scientifica dell'impatto delle singole misure adottate. Poi ecco, ci sono tante polemiche sulla legge di stabilità e quello che comporta, per esempio, i tagli nel sociale. E qui c'è un annuncio importante. Posso annunciare che nel testo arrivato alla Camera non ci saranno più due misure. Non ci sarà più la tassazione dell'indennità di accompagnamento e il taglio del 50% sui permessi previsti dalla legge 104 per disabili o la cura dei parenti affetti da handicap. Però alla domanda sul rispetto del sociale, perché avete alzato l'aliquota IVA dal 4 al 10% delle cooperative sociali, ecco la risposta di Elsa Fornero, che evidentemente chiude questo discorso. Su questo punto siamo sotto procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, c'è una direttiva europea a cui dare attuazione, quindi su questo la colpa non è del governo. Quanto al taglio dell'IRPEF di un punto percentuale a partire dall'anno prossimo, dice Elsa Fornero, io avrei preferito usare risorse per tagliare il cuneo fiscale, ma si tratta di risorse limitate. Messe sul cuneo fiscale sarebbero state una goccia nel mare. Sull'IRPEF è stato importante avere dimostrato una sensibilità nei confronti dei redditi bassi e medio-bassi. E infine sull'eterna questione degli esodati, intanto sentite come risponde Elsa Fornero. Esodati da altri, salvaguardati da noi. Questo lo dico sempre, il discorso è complesso, il ministro, cioè parla di se stessa in prima persona, in terza persona, il ministro non sapeva lo stato dell'arte, forse avrei dovuto, ma nessuno me l'aveva detto. Abbiamo messo la norma di salvaguardia, che era una replica di tutte le cose messe in passato. Mi è stata data una stima iniziale di 50.000, poi aumentata a 65.000 per avere margine, dopodiché si scopre che il mondo imprenditoriale è stato molto più propenso a usare questa leva per un alleggerimento di manodopera rispetto a quanto stimato i nostri uffici. E insomma, e poi riepiloga tutto l'accordo, ribadisce: la riforma non può essere stravolta, la riforma del mercato, la riforma delle pensioni, non possiamo pensare di disfare la riforma delle pensioni come in Parlamento qualcuno ha tentato di fare. Insomma, sono tantissimi temi. Poi le casse professionali, è un'intervista di 2 pagine, ovviamente prenderebbe ben più dello spazio già ridotto per la rassegna stampa a leggerla tutta. Comunque la trovate sul Sole 24 Ore a pagina 2 e 3. Certo, questo tema dell'IVA, dell'aumento dell'IVA dal 4 all'11% per le cooperative sociali porta alla protesta, come scrive Avvenire a pagina 7. Il terzo settore è in rivolta. I toni sono durissimi, il mondo del terzo settore, delle cooperative sociali, dell'associazionismo insorge compatto, scrive Luca Liverani. Le bozze di legge di stabilità tratteggiano uno scenario di nuovi durissimi colpi ai danni delle fasce più deboli. Tra i colpi sotto la cintura c'è sicuramente l'aumento dell'IVA, appunto dal 4 al 10 e presto all'11% per prestazioni sociosanitarie, gli assegni di invalidità e indennità di accompagnamento che finiscono nell'imponibile IRPEF. Mentre la stretta sui permessi previsti dalla legge 104, che qui vengono messi come appunto una stretta, in realtà appunto Elsa Fornero, ministro del welfare, annuncia al Sole 24 Ore che questa stretta sulla legge 104 non ci sarà. Certo, nella legge di stabilità c'è anche questo tema, che la stretta sugli sgravi, che è retroattiva e quindi vale già da quest'anno, e che il Sole 24 Ore ha tirato fuori come notizia 2 giorni fa. E ieri c'è stato un dibattito su questo, perché si è cercato di capire se questa retroattività potesse saltare, cioè farla partire dall'anno prossimo. Il governo in pratica ha risposto così: la stretta sugli sgravi rimane da quest'anno, è dunque retroattiva. Un'eventuale modifica solo in Parlamento. A un certo punto, racconta Marco Mobili sul Sole 24 Ore, il governo prima ha aperto a una possibile eliminazione della retroattività, poi in serata si è chiuso a questa possibilità, e sul possibile dietro front c'è stato una sorta di, come dire, uso questa parola, ricatto, cioè volete togliere la retroattività? E allora noi dobbiamo traslare, rinviare di un anno il taglio di un punto percentuale dell'IRPEF per le fasce, per i redditi bassi e medio-bassi. Alla fine è rimasto tutto così, tanto che nel retroscena di Repubblica, Alberto D'Argenio, a pagina 11, c'è proprio questo tema: se il Parlamento ci corregge, rinviamo metà sconto IRPEF. Noi del testo passato in Consiglio dei Ministri non cambiamo nulla. Questo è un virgolettato attribuito a Palazzo Chigi, dove i toni sono definiti tranchant, cioè netti. Lo portiamo in Parlamento dove saremo aperti al dialogo. Secondo noi la legge di stabilità ha una sua logica. Vedremo se ci sarà una maggioranza per fare modifiche stravolgenti. Non cambiamo nulla. Quindi volete togliere la retroattività e noi spostiamo di un anno il taglio dell'aliquota del 27%. Certo, la situazione riguardo alla legge di stabilità è molto discussa. I partiti rumoreggiano. Oggi su Libero c'è un'altra notizia che non farà piacere alle imprese. Franco Bechis la mette in prima pagina: fatta la legge per non pagare, scrive Franco Bechis, è un pugno nello stomaco di imprese, commercianti, fornitori dello Stato. Hai lavorato per il tuo paese, ti sei fatto in quattro per fornire bene servizi a un ministero, a una regione, sono due o tre anni magari, o magari quattro, che aspetti di essere pagato. La tua pazienza è finita, da oggi sei un nemico pubblico del governo di Mario Monti. Questa è la visione di Libero, perché è stata messa in due articoli una legnata alle imprese creditrici dello Stato da lasciare sbarrati gli occhi. In un articolo si sospende fino al 31 dicembre 2013, quindi per altri 14 mesi, i diritti di tutti i fornitori delle regioni per la sanità. Sono impignorabili tutti i crediti vantati dai fornitori per le regioni che sono sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, con la scusa che hanno bisogno di più di un altro anno di tempo per concludere le operazioni di certificazione dei debiti sanitari pregressi. La seconda perla, identica nella sostanza, ma riguarda l'impignorabilità di tutte le somme destinate al pagamento di spese di giustizia, anche quelle per forniture penitenziarie. Insomma, titola Libero, lo Stato si fa la legge per non pagare. In tutto questo la politica di cosa discute? Beh, della regione Lombardia. Su questo segnalo un'intervista al ministro, all'ex ministro, leader della Lega, Roberto Maroni, sul Corriere della Sera, intervistato da Marco Cremonesi a pagina 11, dice: io non ho mai detto, come ci ha detto ieri questi microfoni Flavio Tosi, non ho mai detto a Formigoni che sarebbe rimasto fino al 2015. La Lega non può accettare di stare in una giunta in cui c'è un assessore accusato di aver preso voti dall''ndrangheta. Fosse stato per me distinto, avrei sciolto subito la regione. La Lega certamente aspira ora a indicare come presidente della regione un suo uomo, e per quanto mi riguarda ne sarei onorato, e posso dire che per me sarebbe certamente più importante e gratificante che non fare il ministro. Dunque Maroni, dicendo la massima ambizione di un federalista è guidare la propria regione, di fatto si candida, ormai il dado è tratto, alla regione Lombardia. Ammette: mi piacerebbe essere candidato e governare la regione Lombardia. Dall'altra parte, l'altro tema politico è quello della cosiddetta rottamazione. Rottamazione è un termine che l'Unità definisce in prima pagina oggi fascistoide, e mette la foto di Matteo Renzi. E che rinnovamento, rottamazione, chiamatela come volete, il passo indietro di Veltroni ha aperto il vaso di Pandora nel centrosinistra, a dire che faranno ora gli altri dirigenti. Di questo noi parleremo alle 8.30, ma è anche il tema politico dibattuto sui giornali, da cui riparteremo dopo le informazioni sul traffico. L'Unità titola pagina, in prima pagina c'è il commento di Michele Prospero, e poi a pagina 3: rottamazione è una parola fascistoide. E infatti il titolo dell'Unità è questo in prima pagina. Rottamazione, vada a memoria, perché me la sono persa. Rottamare o rinnovare, credo che sia questo. Rinnovare o rottamare, ecco, termini invertiti, ma il concetto non cambia. Questo in prima pagina dell'Unità. Certo, il passo indietro di Veltroni, di quando dice l'ex segretario del PD non mi candido al Parlamento, ora è ovviamente aperto il dibattito, perché tutti coloro che sono da diversi anni in politica nel Parlamento, nel centro-sinistra, ma questo discorso ovviamente nel centro-sinistra è più radicato, perché c'è Matteo Renzi che porta avanti questa idea, ma vale anche nel centro-destra, vale anche nel centro. Ci vuole un rinnovamento totale? Beh, interessante sul Corriere della Sera Fulvio Buffi e Monica Guerzoni. Il fatto che Massimo D'Alema, che ieri ha detto io la mia posizione è di non candidarmi, se il partito me lo chiede allora potrei candidarmi. Sottile e molto intelligente la posizione del presidente D'Alema, perché adesso vuole anche in qualche modo vedere se qualcuno allora vuole stanare i big del partito, a dire allora me lo chiedete di candidarmi oppure no. Ebbene, ma secondo il Corriere della Sera D'Alema in realtà vuole fermare Renzi. Così me ne vado prima del voto, scrivono Buffi e Guerzoni a pagina 14. In realtà la posizione di D'Alema sarebbe questa: io voglio salvare e difendere la dignità della storia personale, la dignità del Partito Democratico. Dicendo questa frase facciamo argine a questa ondata e dopo io me ne vado tranquillo. Quando? Subito dopo le primarie e prima delle elezioni. Tradotto, faccio di tutto per bloccare Renzi. E poi quando sono tranquillo, nel senso che Renzi, sto traducendo, ha perso e ha vinto Bersani, allora me ne posso andare tranquillo. Ma l'ultima missione mia potrebbe essere quella, fermare Matteo Renzi. Ovviamente sul Messaggero Fabrizio Nicotra intervista Franco Marini, ex presidente del Senato, che dice «Io non seguo l'esempio di nessuno, resto a disposizione del partito». E aggiunge solo l'idea che uno possa usare il termine rottamazione, questi toni, questa parola, con uno come D'Alema mi manda in bestia. Questi slogan sono una degenerazione. Bisogna levarsi dalla testa l'idea che ci possa essere un uomo solo al comando, con attorno gli altri che preparano i format e quelli che battono le mani. Tutti i partiti personali hanno fatto il loro tempo e soprattutto hanno fallito. Tuona anche Livia Turco dall'Unità, intervistata da Maria Zegarelli. Basta umiliare e liquidare un'intera generazione. Non è Matteo Renzi a doverci dire cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Io ho già annunciato un anno fa che non mi sarei ricandidata alle prossime elezioni. Ma ha ragione D'Alema, perché mette l'accento sulla responsabilità collettiva. Tra l'altro D'Alema, per il quale è uscito ieri questo avviso a pagamento, annuncio a pagamento, sull'Unità, di molti che dicono rimani, tra questi Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, sarà nostro ospite, con Beppe Fioroni, uno del Partito Democratico, della vecchia guardia, che anche lui dovrebbe essere rottamato, usando questa parola fascistoide, secondo l'Unità. Un po' di ironia su questo. Iena, preghiere, pagina 3 della Stampa. Partito nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci da D'Alema. Amen. Questo è Iena, mentre Vauro, prendendo in prestito Schettino, scosse nel PD, c'è Veltroni su una barca un po' alla deriva. Veltroni abbandona il Parlamento e una voce fuori campo dice «Non torni a bordo, cazzo!». Mentre l'Unità con Bobo in prima pagina, Bobo scrive ad Alema «Caro Massimo, ti voglio tanto, tanto, tanto bene. Sono indignatissimo per come ti sta trattando quel Renzi. Inconcepibile. Adesso mi muovo anch'io. Di firme che ti invitano a rimanere te ne trovo non 700, bensì 700.000, a patto però che tu da signore poi ci risponda no». Vabbè. C'è anche Ugo Sposetti, ex tesoriere dei DS, che invece dice, ribadisce, farò il nonno. Insomma, il tema è questo, rinnovamento, rottamazione, come la volete chiamare, le nuove elezioni politiche, le imminenti elezioni politiche potrebbero essere su questo molto interessanti. devo chiudere solo una notizia che interesserà molti italiani: la Cassazione ha stabilito è reato cacciare il partner anche dopo il divorzio. Nella casa coniugale la casa rimane della coppia. Leggo dalla prima del Messaggero, ma lo trovate anche sull'Unità. Valentina Errante sul Messaggero: nessuno dei due coniugi può decidere arbitrariamente di cacciare l'altro dalla casa coniugale, soprattutto quando a stabilire chi debba vivere nell'ex nido è un tribunale. E così, anche se l'amore è finito, la convivenza è diventata la prova più dura, uno dei due ha deciso di abbandonare la capanna e tornare per un po' di tempo dai genitori, l'ex casa comune non diventa un diritto acquisito per chi ci vive. Così ha stabilito la Cassazione, è reato cacciare di casa il coniuge, anche se questo va un po' di tempo con i genitori, se la casa è coniugale, cioè di tutti e due, non si può cambiare la serratura. Bisogna accettare, così è. È il tempo di Giornale Radio e poi ci risentiamo con gli ospiti politici dalle 8:15.